girò. Il dolore di ogni uomo e canterò, no, no, no, un'arma migliore di questa fede nel tuo amore, così povero nel mio cuore, ma tu, Signore, dona la pace dall'alto della tua croce.